sikia sauti ya jamaa jirani. Yeah. mtoto sikiaje bwana. Wapi Paulo Masami? Sima Juma Dole. Sele Baruti. Enoki Wambea. Yeah.